vertenze politiche su una versione pornografica del mito di Pasife alle carrozzerie Not dall'11 al 14 di gennaio, quindi questa settimana, e ne parliamo con Johannes Bramante. Ci sei? Sì, ci sono. Ciao. Allora, intanto ti chiedo subito di tracciarne una sinossi a brevi linee. Allora, è una rielaborazione del mito di Pasifae. Pasifae nella storia mitica, ce lo racconta Ovidio, la moglie del re di Creta, Minosse, e la vicenda è alquanto scabrosa, in quanto il dio del mare, Nettuno, regala a Minosse un toro bianco e successivamente gli chiederà di immolargli questo toro. Cosa che Minosse non farà, e la vendetta del dio sarà quindi quella di far innamorare la moglie del re, appunto Pasifae, di questo toro. Questa è la vicenda mitica come ci viene raccontata più di 2000 anni fa. Ora, nella nostra versione, in vertenze politiche su una versione pornografica del mito di Pasifae, la cosa si sposta e accade nei nostri giorni. Abbiamo quindi sostituito questo ambiente mitico di re, regine, di spade e guerre dell'antichità con l'ambiente in cui si regna e si combatte ai giorni nostri, quella elite sociale che può decidere di vita o morte del popolo e che può seguire tranquillamente la propria cupidigia. Questa elite, queste figure di re e regina si trasformano quindi in presidenti e amministratori delegati di una grande azienda, di una società per azioni. Quindi vediamo un Minosse che è un presidente senza scrupoli di una grande azienda italiana di costruzioni, e Pasifae che è un'amministratrice delegata della stessa azienda. La vicenda quindi si svolge tutta non a colpi di spada, ma a colpi di sotterfugio e di mazzette da dare ai vari assessori per poter costruire, e combattono la loro guerra in ufficio con telefoni e con il ricatto del denaro. Quindi in grandi linee abbiamo trasformato questo mito antico in una situazione assolutamente contemporanea, nella quale però il carattere mitico, la psicologia dei personaggi antichi riemergono, perché il mito non si può uccidere ovunque si va, ce lo ritroviamo e risorge quando meno se lo si aspetta. Senti, da dove è partito tutto? C'è sempre questo, il mito è una memoria che ci accompagna o che mi accompagna, me che scrivo, nel quotidiano. E uno ha sempre presente i versi dell'antico, le storie dell'antico, che sia Ovidio, che siano gli altri poeti e drammaturghi. E poi ci si riscopre semplicemente nella vita di tutti i giorni, trovare queste cose, diventare realtà per caso, o forse per fato, chi lo sa, nell'ambiente che ci circonda. È come il mito, è come una sorta di pattern che poi si posa sulle vicende di tutti i giorni. Quindi questo spettacolo non ha una data di nascita, ha soltanto una data di andata in scena, una data di scadenza, se vogliamo, perché tutto il processo creativo è un vivere, è un notare che queste figure mitiche continuano a circondarci, continuano a esistere, e che questa cupidigia, questa voglia di questa avarizia, la voglia di sangue e sesso continua a esserci esattamente così come ce la raccontano i poeti, i drammaturghi antichi. Quindi in realtà più che un atto di creazione è più un indicare qualcosa che già accade. Okay. Senti, Johannes, ci racconti anche un po' della Compagnia Coturno 15? La Compagnia Coturno 15 è nata 3-4 anni fa, proprio con questo proposito. Abbiamo finora lavorato principalmente sul mito e principalmente sul mito nei giorni nostri, quindi prevalentemente sul riscoprirsi tutti noi, chi più chi meno, comunque personaggi di una dinamica mitologica come ci viene raccontata. Quindi, notato questo, abbiamo avviato 3 anni fa una trilogia sul mito, che è cominciata con il complesso di Antigone, è andata avanti l'anno scorso con Alcestis 2.1, appunto si conclude adesso fra qualche giorno Convergenze politiche, e abbiamo quindi seguito un percorso prevalentemente mitico. Abbiamo ristudiato questi miti antichi, perché ci siamo resi conto appunto che questa dinamica continua a esserci, non è assopita, non sono storie vecchie, è solo l'involucro, è solo forse il verbo, il modo di raccontarle che appare, che ci appare di un'altra epoca, quando in realtà ci appartiene molto da vicino. Quindi ci siamo indaffarati nel ridare una voce, nel ridare una parola a questi caratteri del mito, a preservare in qualche modo i moti dell'anima di questi eroi o questi mostri, perché in realtà anche gli eroi sono mostri, di queste figure dell'antichità, e ridargli un vestito nuovo, un vestito da XXI secolo. Quindi concludiamo per ora questa avventura mitica con lo spettacolo che va in scena questo giovedì, e poi ci sarà il prossimo progetto. Bene, ci sono anche già delle date per le novità? La novità per adesso è novità, perché è la prima volta che va in scena, è questo spettacolo qui a giovedì a Carrozzerie. Quindi debutta a Roma praticamente. Debutta a Roma, è una prima assoluta, quindi siamo curiosi anche noi, perché la prima volta che si presenta qualcosa al pubblico e si battezza uno spettacolo, c'è quella giusta curiosità, che è anche la parte divertente del nostro lavoro, di vedere come viene recepito, qual è il primo impatto, e poi dopo vediamo cosa accade, mentre gli altri spettacoli, per esempio Alcestis, andrà in scena a aprile a Milano e lo portiamo un po' in Nord Italia, cosa che ci auguriamo di fare la stagione prossima anche con questo che debutta adesso. Benissimo. Senti, in chiusura ci lasci tutti i vostri riferimenti internet? Sì, c'è la pagina su Facebook che è sempre attiva, che è la pagina appunto Compagnia Coturno 15, e questo lì accade un po' in diretta quello che facciamo in compagnia, lì si possono leggere le recensioni degli spettacoli passati e anche di questo futuro, e live ci si può vedere appunto a Carrozzerie Notte a partire da questo giovedì. Bene, dall'11 al 14 Carrozzerie Notte qui a Roma. Johannes, un abbraccio, un in bocca al lupo, e ci si vede a teatro. Crepi, un abbraccio anche a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.